steccato di pene sarà largo incognito toro e non trema le stelle e non sospira il cielo al lucir strepitoso e dissonante del mio grido. Superbetta donzella mi risulterà il titolo d'ancella, ciò viltà gran virtù che d'un'ancella sia figlio. A che dunque ne vieni a debellarti? Troppa semplicità credi fasci agnelli o che scherzi con augelli credo atterrar dragoni. Al campo, all'armia, le penzoni. Se la mazza le nostre donna in pelle, siete impazzite, o stelle. Cieco sei tu, sei nato sol, non vede. Aquila sol. Ma il nave non possiede. Sai, cani del ferro, io le due cifre apprendo. Ma che all'uomo s'unisca, io non l'intendo. Poi intendo un superbo, le note d'umiltà. Dio per farla da Dio, Dio per farla da Dio. Thank you. da con bambino i miei furori. A forza d'umiltà il tuo superbo piede si inchinerà. Se ti rabbiosi artigli dei cerveri latranti, sarò misera preda quando ai tuoi colpi cedo. Cade ai piedi il mio sole. Nasce ad arpace o a suscitar tensore. Oggi ai tuoi danni il sole arde in leone. Come il leone sei mansueto e tuo agnello, con bocca ancor di latte. Pace, pace, gluon, pace, pace, gluon, grida tanto fa. Perché in vergine sta? Un costolo plebeo dei mistici pastori, con il flusso benigno a me contrasta. Sì, perché con superbezza vagivitario sei tu nel cielo, fuori in terra che vuole per fiaccar le tue corna insauri il sole.